A bordo campo di Dario Ricci. C'erano una volta a Rosarno i giorni dell'ira. Un'aggressione, l'ennesima, agli immigrati, i disordini, le auto, le vetrine in frantumi. Poi le ritorsioni, le ronde coi bastoni, la caccia al nero, ma anche un paese reale sceso in piazza per dissociarsi dalla piega xenofoba. Infine polizia, espulsioni, sgomberi. Ma le stagioni si prendono la rivincita sulla cronaca ed è seguendo il loro ciclo che i braccianti dalla pelle scura giunti dall'Africa subsahariana o dal Maghreb tornano qui in cerca di lavoro. 25 euro per 8 ore a raccogliere mandarini, arance e kiwi da novembre a fine marzo. Era il gennaio 2010 quando a Rosarno, in Calabria, terra di agrumeti e di coltivazioni agricole, scoppiò la rivolta dei braccianti, quelle persone, quegli uomini che arrivano da ogni parte d'Africa per guadagnarsi da vivere, lavorando nei nostri campi, in quegli agrumeti. Ebbene, 3 anni dopo, quegli stessi braccianti hanno dato vita, grazie all'aiuto di un prete di frontiera coraggioso e creativo, Don Roberto Meduri, della parrocchia di Sant'Antonio della periferia di Rosarno, ad una squadra di calcio, la Coa Bosco, che si è appena iscritta al campionato di terza categoria. È questa la storia che oggi vi raccontiamo a bordo campo, una storia di difficoltà, di sofferenza, di condizioni estreme, ma anche una storia di solidarietà e in fondo sì, anche una storia di pallone e di calcio. Allora, entriamo subito negli spogliatoi della Coa Bosco, che ha iniziato la settimana scorsa il suo campionato. Sentiamo subito chi è il nostro primo ospite, è il capitano di questa squadra. Benvenuto capitano. Buonasera, mi chiamo Hadim Gay. Io gioco centrocampista offensivo. Da dove vieni? Io vengo dal Senegal. Ah, quindi una patria di grande calciatore, insomma. Sì. Questa esperienza della squadra del Coa Bosco, beh, avete iniziato il campionato con una sconfitta, bisogna migliorare, eh? Allora, abbiamo iniziato con una sconfitta sabato scorso, però tutti sono contenti perché la squadra ha giocato bene, abbiamo avuto tante occasioni e che mancava la fortuna per pareggiare la partita, magari per vincere la partita. E senti, quando non giochi a calcio a Rosarno cosa fai, capitano? Quando non gioco a calcio sono in paesi, se c'è un lavoro lo faccio, se non ho lavoro sto a casa, ogni tanto vado nel paese per girare, così vedo le cose. Tu lavori nei campi? Sei impegnato nella raccolta degli agrumi? Sì, di arancioni o dei mandarini. Ecco, di solito a che ora ti alzi la mattina? Come funziona la tua giornata? Noi praticamente alziamo le 6:30, prepariamo, facciamo la colazione, la preghiera, poi andiamo verso le 7:30 per provare di lavorare. E si trovi lavori, finisci alle 4:30, poi torni a casa. Ad esempio io oggi mi sono alzato alle 7, sono andato al lavoro, ho finito alle 5, riposo un'ora e mezzo a casa, poi sono venuto a allenarmi. Questa esperienza della squadra vi sta aiutando anche a dialogare con gli abitanti di Rosarno? Sì. Mi stanno aiutando a parlare e a vedere tutti la città di Rosarno. Senti, ma Don Roberto è un buon presidente, sì? Sì, è bravo. Sempre impegnato sulla squadra, sempre prova di fare meglio per andare avanti il progetto, la squadra, quindi è un buon presidente. Bene, allora lo confermiamo, dai. Sì, è bravo, è una brava persona. In Senegal sanno che stai giocando anche a calcio in Italia? Sei in contatto? No, avevo parlato con mia madre e mie sorelle, ma solo loro lo sanno, ma gli altri amici miei non lo sanno. Quanti anni hai, capitano? 25. Grazie allora al capitano della Coa Bosco. Ci ha raggiunto intanto in onda Don Roberto Meduri. Beh, Don Roberto, intanto complimenti per l'iniziativa. Poi ha sentito, il suo capitano l'ha confermata come presidente della società e quindi ormai non può tirarsi indietro. Sì, questo sicuro, ma no, non mi pongo mai come presidente perché non preferisco essere il loro una guida, ma più che altro spirituale perché sono un prete, quindi non no, no, anzi posso dire che non sono un tifoso. Però appassionato di calcio, perché a lei è venuta questa idea di creare questa squadra, no? Questa non nasce dalla passione per il calcio, purtroppo. Nasce piuttosto dalla necessità che loro stessi hanno trasmesso. Cioè, questi ragazzi venivano tutti i giorni alla Caritas e noi non riuscivamo più ad aiutarli. Allora da lì poi è nata l'esigenza di fargli fare qualcosa. E allora, guardando un po' i ragazzi, gli ho chiesto: cosa sapete fare? Organizziamoci, inventiamoci qualcosa. E da lì è uscita fuori quest'idea della squadra. Piano piano hanno acquistato un po' di fiducia, perché per loro andava bene all'inizio avere un pacco di pasta, qualcosa che li poteva un po' portare avanti. E tutto però dovete pensare che si svolge dopo la rivolta di Rosarno. Eh sì, era il gennaio 2010 quando ci fu questa, questa rivolta di queste persone, ricordiamolo, che fanno una vita che non esito a definire d'inferno, perché ci si alza presto la mattina, si cerca lavoro a bordo strada sperando che qualche caporale ti porti nei campi a raccogliere agrumi, fino a che c'è la luce, fino alle 4:30, alle 5 del pomeriggio, e potete immaginare che fatica ti resti nelle mani e nelle ossa. Beh, però Don Roberto, alla fine poi però questo calcio, questo pallone ha cominciato a girare, a roteare, sì. E si è creata questa Coa Bosco. Che cosa vuol dire il nome, Don Roberto? Allora, il Coa Bosco è un'antica associazione di cavalieri del Sant'Altare. Comunque significa cavalieri del Sant'Altare pronti a servire. Era un'associazione della mia parrocchia, con Don Pino De Masi, un referente di Libera calabrese. Eh sì, molto conosciuto. Sì, e quindi con loro un po', cioè, era nata sta cavalleria di aiutare i più bisognosi. E in quel momento i più bisognosi erano loro. E allora da lì abbiamo lasciato questo nome, perché erano i primi volontari che ci aiutavano per tenere insieme questi ragazzi. Lì dalla parrocchia di Don Pino si partiva ogni mattina a fargli la colazione, a fargli il pranzo di Natale. Ce n'è voluta poi, dopo c'è stata la rivolta che ha un po' segnato i cuori sia degli africani che degli italiani, dei rosarnesi, che sono rosarnesi a dispetto di tutto quello che si possa dire. Sono solidali e sono accoglienti. C'è stata quella giornata che è stata una giornata proprio tremenda, e lì un po' ha accentuato delle spaccature. E un po' vi dico che col calcio queste spaccature si sono proprio, se non rimarginate completamente, ma sono lì a rimarginarsi. I giovani fanno il tifo nelle scuole e quindi un pochettino è bello vederli, cioè, circondati anche dai ragazzetti che fanno il tifo. Magari c'è uno che si chiama Samoa e quindi tutti magari pensano, vedo proprio il vero Samoa. Certo, vedo il campione juventino. Ma le chiedo ancora, Don Roberto, è anche vero che al di là del pallone, se lo dico io è tutto dire, insomma siamo a bordo campo, è anche nella vita quotidiana il fatto che queste persone si siano avvicinate a lei, alle vostre attività, alla parrocchia, ha creato altri canali di dialogo, perché insomma un conto è vedere queste persone che lavorano nei tuoi campi, un conto è ritrovartele fianco a fianco la domenica a messa, no? Infatti, lì è stato uno shock per le persone, perché magari un po' di malcontento qualcuno lo potrebbe esprimere, ma vedersele a messa, poi fargli fare la predica a loro, non proprio la predica, cioè, li ho fatti intervenire durante l'omelia perché era la giornata mondiale delle missioni. Allora, quale più occasione propizia per farli salire sull'altare, cantare due canti africani che hanno un po' scosso la gente, perché un po' noi siamo abituati nelle messe tutte belle pacate, tutte belle ordinate. Sempre la solita nenia, loro portano, no? Portano un po' il fuoco dell'Africa, e con i canti li hanno proprio coinvolti. Anche la testimonianza che loro hanno lanciato è una testimonianza che è veramente detta da loro, cioè di camminare dritto, proprio come gli antichi gospel: cammina dritto perché Dio torna, Dio viene, era il grido che hanno cantato quella domenica mattina in chiesa, e la gente gli è servito. Sono musulmani e cattolici, la squadra abbraccia un po' tutte e due le realtà, e anche quella ebraica, perché la prima azione, il primo evento che hanno fatto nella giornata della memoria qui in Calabria, hanno visitato il campo di Serramonte e hanno, come cristiani e come musulmani, sono andati lì a portare una pietra, un rito che fanno gli ebrei per visitare, quando visitano le tombe dei propri defunti. E allora è stata una bella giornata anche quella. Don Roberto, qua c'è il rischio concreto che prima o poi vi telefoni Papa Francesco, perché ci state facendo commuovere qua. No, vabbè, no, quello no, non lo meritiamo. Don Roberto, adesso non diventiamo troppo melenzi. Qua c'è pure un campionato da onorare, siete in terza categoria. Sì. Bisogna rimboccarsi le maniche. Sì, gli abbiamo detto che questa volta devono vincere, che in casa si vince sempre. Gli abbiamo raccomandati. Il campo di Rosarno deve rimanere inviolato, ecco, quello è importante. Sì, e lì è una grande sfida, perché ci sono stati, il campo di Rosarno rappresenta tante cose. La Rosarnese esce fuori da un periodo abbastanza critico. Anche quella squadra purtroppo nelle mire dei clan locali, no? Infatti. Però si è riscattata bene, e così anche questa partita è proprio per riscattare ogni tipo di razzismo, ogni pensiero di razzismo che ci possa essere ancora rimasto in giro. Beh, Don Roberto Meduri, che dire, oggi avete conquistato uno, il sottoscritto, e credo molti altri tifosi in più, voi del CO a Bosco, e veramente un grazie per quello che fa sul territorio, grazie. Per la storia che ci ha raccontato, e soprattutto per la partita che gioca ogni giorno con la Coa Bosco, ma anche nella parrocchia e nei campi di Rosarno. Quella la vincono i ragazzi nostri, anche i giovani della parrocchia. A bordo campo. Roma a salvare la ricezione così di Della Lunga, poi l'attacco di Urnaut, la difesa di Verona, va il contrattacco Krom, bravo in difesa per Piacenza, poi Zlatano va a combattere contro Lasco una prima volta, la seconda, la difesa di Colaci, l'applauso di Verona, palla per Lasco, viene il muro di Piacenza, sottile a dar palla a Krom. Sentire la partita, beh, quante volte ne parliamo, e non solo a bordo campo, la sentono gli atleti, la sentono i campioni che scendono in campo, la sentiamo spesso noi attraverso la radio, è un sentire diverso ed ugualmente emozionante. Bene, qui a bordo campo ci ha colpito un modo di sentire la partita che è entrato con forza, decisione e anche con una bella dose di coraggio nei campi della nostra, su un campo in particolare del nostro campionato di serie A1 maschile di pallavolo. Parliamo del campo della Calcedonia Verona, perché questo club ha dato vita a un'iniziativa davvero singolare, davvero importante in occasione della sfida con Perugia. E allora, nostro ospite oggi, il direttore generale della Calcedonia Verona, Stefano Filippi. Benvenuto, dottor Filippi, a bordo campo e a Radio 24. Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie di questa chiamata. Beh, allora, dottor Filippi, c'è già un altro ospite in attesa, ma teniamolo ancora un po' nascosto perché voglio farle una sorpresa. So che in questa sfida contro Perugia, che ahimè, se non sbaglio, avete perso però poi alla fine al tie-break, no? Abbiamo perso il tie-break, ma è stato un buon punto perché Perugia è veramente una delle squadre più forti del campionato. Ecco, quindi un punto in classifica l'abbiamo portata a casa. Però la vittoria più bella è stata quello che è avvenuto sugli spalti, perché avete dato vita a un progetto, a un'iniziativa per far sentire la partita in modo davvero speciale a un gruppo di spettatori davvero speciali, vero? Sì, le confermo. È un progetto che è partito nella mia mente quest'estate, che è stato poi rielaborato, fino a quando ho parlato, l'ho presentato con la dottoressa Mancini, presidentessa dell'Unione Ciechi di Verona, perché la nostra idea era quella di far vivere la partita di pallavolo anche ai non vedenti. Abbiamo iniziato quindi sabato scorso, contro Perugia, che è stata la nostra seconda partita in casa, e li abbiamo avuto una quindicina di persone appunto di questa associazione, con una grande soddisfazione, qualche problemino tecnico. Durante la partita le cose si sono sistemate, anche problemi insomma, un po' di sovrapposizione di segnali, di connessione e quant'altro all'interno di un palazzetto chiaramente possono succedere, però poi abbiamo sistemato tutto e siamo riusciti, spero a far vivere un momento diverso a queste persone, a far vivere la partita, anche se non la possono vedere, ma sicuramente la possono vivere. Quindi avete trasmesso via radio, attraverso degli apparecchi collegati con la radiocronaca di un radiocronista locale, no? Se non sbaglio. Esattamente, il telecronista, colui che stava raccontando la partita per la televisione locale, Telearena. C'era questa connessione, quindi un ripetitore che prendeva questo segnale e lo trasmetteva poi via cuffia a questi nostri amici, però con la possibilità, quindi, appunto perché avevano delle cuffie, potevano vivere dal vivo questa partita, quindi sentendo tutti gli umori delle due curve. Beh, allora chiediamolo subito a una delle dirette interessate, la già citata presidente Roberta Mancini, presidente dell'Associazione Ciechi e Ipovedenti di Verona. Si sentiva bene la partita, presidente? Ben trovata qui a Radio 24 a Bordo Campo. Esatto, innanzitutto buon pomeriggio, buona giornata a tutti. E sicuramente, come citava Stefano, all'inizio c'è stato un attimo di defaianza, perché di fatto non funzionava la frequenza, per cui risultava proprio solo il fragoroso tifo, ma non riuscivamo a seguire nulla. Poi invece quando si è messo tutto a posto, devo dire che effettivamente è un'emozione diretta, e quindi siamo riusciti col cronista, anche se non siamo proprio avvezzi a questo sport, effettivamente a seguire almeno quello che stava succedendo. Diversamente sarebbe stato proprio un inferno di rumori, di tamburi, di urla, però di fatto non capivamo cosa stava succedendo. Ecco, quando in assenza di esperimenti di questo tipo, che tra l'altro possiamo confermarlo avrà seguito fino alla conclusione di tutto il campionato di Verona, e speriamo magari allora a questo punto che Verona arrivi anche in finale, così vedete tutte le partite del campionato. Ecco, presidente, in assenza di esperimenti di questo tipo, lei di solito come si gode una partita? Inevitabilmente ci vuole un accompagnatore che in qualche modo spieghi cosa accade in campo. È una situazione nella quale anche l'accompagnatore, essendo veramente il chiasso, sarebbe impossibile proprio raccontare la partita in diretta, perché non si sente assolutamente niente. Io ricordo un'esperienza di un nostro amico che diceva: mi hanno portato a vedere una partita di pallacanestro, è stato un inferno per tutti e due, perché la persona vorrebbe anche raccontare, però c'è talmente tanto rumore nei palazzetti, insomma in luoghi così affollati, per cui diventa anche veramente una sfida riuscire a raccontare in diretta che cosa succede. Quindi poi, non vedendo, si recepiscono tutti i suoni, tutti i rumori in una maniera assordante, quindi diventa veramente... nulla si gode, insomma, la partita. Ci sarebbe possibilità in anche perché spesso ci vuole un accompagnatore avvezzo a quello sport, esatto, insomma, esatto, no? Quindi che conosca il giocatore, cioè, altrimenti non sei in grado di seguire. Sì, quello lì sta segnando, quell'altro sta facendo quello, però diventa veramente, insomma, demotivante, ecco. Invece a Verona hanno pensato un po' all'uovo di Colombo, no? È il metodo più facile, unire radio e TV. E senta, le chiedo ancora, presidente Mancini, ci sono altri esempi di questo tipo che in qualche modo stanno prendendo piede, o accorgimenti di questo tipo, oppure anche lo sport, accedere allo sport come spettatori per chi ha un handicap come il vostro è una missione tutta in salita? Sicuramente la missione è tutta in salita. Mi risulta dai racconti di un nostro ragazzino non vedente, che è un appassionato sportivo, che sicuramente mi ha detto che tornerà a vedere le partite anche di pallavolo, gli è piaciuto molto. Mi pare che ci sia anche allo stadio, se si fa richiesta, per il calcio, però tutto il resto, tipo basket o altro, non mi risulta che ci sia accessibilità, come peraltro purtroppo non c'è accessibilità nemmeno ai cinema, ai teatro. Ecco, questo è un grande neo dell'accessibilità per le disabilità sensoriali. Direttore generale Filippi, so che però non è questa l'unica iniziativa che avete in campo a Verona nell'aprirvi alla città, nell'aprirvi al sociale. No, assolutamente no. È chiaro che noi siamo una società sportiva e quindi in quanto tale abbiamo l'evento sportivo come momento massimo del nostro lavoro, della nostra giornata, quindi delle nostre domeniche. Ma nella realtà da 7 anni noi abbiamo iniziato un percorso aprendo un progetto che si chiama Porta Aperta alla Solidarietà, per cui ogni domenica una onlus si presenta al palazzetto nelle modalità che preferisce, quindi anche vendendo dei prodotti se vuole autofinanziarsi o distribuendo dei materiali oppure portando semplicemente dei propri iscritti, dei propri tesserati. Direi che allora a Verona con A Bordo Campo torneremo presto, perché di altre belle storie ce ne sono da raccontare. Intanto grazie per essere stato nostro ospite oggi a Bordo Campo, presidente Roberta Mancini, presidente dell'Associazione Ciechi e Ipovedenti di Verona. Ormai il ghiaccio è rotto, bisogna accompagnare i gialloblu fino alla finale scudetto a questo punto, presidente. Direi di sì, perché l'emozione è stata veramente palpabile, quindi possiamo dire che partecipiamo attivamente e solidalmente anche noi alla, speriamo, vittoria, chissà, del campionato. Speriamo. Aspettiamo maggio-giugno per avere l'esito definitivo. Intanto grazie per essere stati oggi nostri ospiti qui a Radio 24 e A Bordo Campo. Grazie mille. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Gianmarco Ferronato in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail abbordocampo@radio24.it, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e riascoltarci attraverso il nostro sito www.radio24.it. L'appuntamento è come sempre per domenica prossima alle 16.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.